Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buonasera e ben ritrovati a Rock Wave Live, Io mi racconto. Questa sera posso dire a pieno titolo che ho il piacere di parlare con un grandissimo artista della musica italiana che ha lavorato a fianco di molti artisti della musica italiana. Pensate, autore dal 1975 ad oggi di 11 album, una raccolta e 10 singoli. Abbiamo tantissime cose da parlare con il nostro ospite, ma anche tantissima musica di altissimo livello da far ascoltare. Vado quindi subito a presentare i nostri ospiti. Ho il piacere e l'onore di avere con me Renzo Zenobi e Vannuccio Zanella. Grazie Renzo. Eccoci. E grazie Vannuccio. Eccoci qua. Vannuccio è il produttore dell'ultimo album di Renzo Zenobi, Volando. Dico bene Vannuccio? Forse il più bello. Qui non so se Renzo è d'accordo. No, non sono d'accordo anche io. Cioè, a me piacciono un po' tutti quelli che ho fatto, naturalmente, perché l'ho fatti comunque. Però devo dire che quest'ultimo mi ha dato una marcia in più, nel senso che, a parte che se non avessi incontrato Vannuccio, forse non l'avrei neanche fatto, perché non avevo più intenzione molto di scrivere e di fare. Poi ho incontrato lui e bene o male mi ha detto: guarda, se scrivi delle canzoni che siano abbastanza carine, io ti aiuto a fare questo disco. Io l'ho scritte, a lui sono piaciute e abbiamo deciso di farlo. Renzo, io direi che per molti di noi sicuramente ti conoscono, ma anche per questi giovanissimi che magari non sanno chi è Renzo Zenobi, si chiederanno: ma chi è Renzo? Renzo, ragazzi, veramente fa parte della storia della musica italiana passata, ma soprattutto, come abbiamo appena detto, presente. Renzo, io direi di fare anche un po' della tua storia, da dove provieni, perché tu provieni dalla scuola romana, precisamente dal Folk Studio. Ma dunque, io prima di andare al Folk Studio ho già lavorato nell'ambiente discografico, nel senso che praticamente io ero uno che stava a casa e studiava la chitarra perché gli piaceva Donovan, gli piaceva Simon & Garfunkel, gli piacevano i Beatles, gli piaceva Dylan. Quindi automaticamente passavo i miei pomeriggi a cercare di imparare questi arpeggi, perché comunque mi piaceva molto lo strumento. A quel punto un mio amico, neanche tanto amico, però comunque un conoscente, che si chiamava Edoardo De Angelis, mi chiamò e mi disse: senti Renzo, io so che tu sai fare l'arpeggio folk, io ho un ragazzo che deve fare un disco, perché non vieni tu a suonare queste canzoni con questo tuo arpeggio? E io dissi: vabbè, proviamo, se riesco a farlo, perché io non ero mai stato in uno studio di registrazione, quindi sai, un conto è suonare a casa tua senza un ritmo, piano piano, tranquillamente, un conto è stare in uno studio in cui non puoi sbagliare, nel senso che, bene o male, devi fare una canzone di 3 minuti e mezzo cercando di farla tutta per bene. Allora lui mi chiamò, mi presentò Francesco De Gregori, che era la persona che doveva fare questo disco, e cominciamo a fare questo disco di Francesco. Poi io e Francesco siamo diventati amici al di fuori di questo, del disco che abbiamo fatto, che io ho suonato, che si chiamava Alice. E naturalmente lui mi ha detto: Renzo, ma perché non vieni a cantare al Folk Studio? Io dissi: ma guarda Francesco, che io non ho scritto ancora delle canzoni complete, ho fatto una piccola cosa, nel senso che nella mia follia avevo musicato dei pezzetti della Divina Commedia. Quindi non c'è ancora nulla praticamente. No, io avevo preso Paolo e Francesca e ci avevo messo una musichetta sopra. E dissi: guarda, io posso venire e canto Paolo e Francesca. Allora andai a questo Folk Studio dove c'era un certo signor Cesaroni, che era il proprietario, Giancarlo, sì. E mi disse: vabbè, canta sta cosa, vediamo come viene. Allora, io una domenica pomeriggio mi misi nella lista di quelli che dovevano cantare una canzone a testa. Perché lì si entrava soltanto chiedendo, in pratica. No? Dunque, se eri famoso, tu andavi da Giancarlo e dicevi mi fai fare una serata. E quello ti diceva ok, benissimo, facciamo la serata. Tu ti prendi il 50%, il 50% lo prendo io dei biglietti strappati. E tutti fa. Però se tu non sei famoso, devi venire la domenica pomeriggio in una rassegna che comincia tipo alle 4:30 e finisce alle 8:30, in cui ognuno dà il suo nome, viene messo in un ordine e va sul palco e canta la sua canzone. Io diedi il mio ordine, il mio numero, le mie cose, e andai a cantare Paolo e Francesca. Paolo e Francesca l'ho cantato, la gente ha battuto un po' le mani, insomma non è che si è incavolata. Allora, era importante il battito. Era importante delle mani. Perché se la gente ti fischiava oppure non batteva le mani, rimaneva immobile. No, Giancarlo diceva: guarda, sei molto bravo, però grazie, torna quando hai scritto altre cose, perché queste non sono sufficienti per questo tipo di locale. Io invece cantai questa cosa, la gente bene o male l'ha un po' accolta. E Giancarlo mi ha detto: guarda Renzo, a me sta cosa non è che mi piace, perché non me ne può fregare meno, però se tu scrivi una canzone vera e torni, a me secondo me potresti fare una cosa carina. Anche io dissi: ah sì, benissimo, vado a casa e scrivo Silvia. Ho scritto questa Silvia e sono tornato la domenica dopo, ci ho messo un mese a scriverla, poi la prima canzone che si scrive è sempre una cosa lunghissima. È meditata, perché poi cerchi di fare il meglio, oltretutto io dovevo scriverla per poterla andare poi a cantare, quindi dicevo no, deve essere carina, deve essere all'altezza di De Gregori, di Venditti, tutti quelli che andavano a cantare lì. E quindi scrissi questa Silvia e appunto dopo 4 domeniche dopo andai, la cantai e la gente fu contenta. Più che altro Giancarlo fu contento, mi disse: guarda, mi piace la canzone, tu mi sembri che sei abbastanza bravo, torna pure la prossima domenica, torna quando vuoi, poi vediamo se possiamo fare, se scrivi altre canzoni, faremo anche una seratina tutta tua. E così è cominciata la cosa. Facciamo così, sì. Io direi di farla ascoltare in acustico, così sentiamo subito come l'ho fatta, diciamo. Come l'hai fatta. Non la faccio tutta, me ne faccio un pezzetto. Come Fanno anche, come preferisci te, Renzo. Tutto su un tramonto viola acceso, con il tè sopra Firenze. Nuovi giorni prometteva aprile, cerchi di limone alle colline. Il tuo glicine sognava, nodi di mare sulle nostre dita. Silvia, ti ricordi la commedia recitata d'un sorriso? La mia voce si accordava lenta e beato angelico negli occhi e mio padre nel cervello e senza diambra consolava il mio mantello. Il fuoco di quercia triste mi guardava con occhi saggi. Da domani un'altra storia, un'altra faccia fra i suoi legni. Ed ancora un giorgione sopra il letto non ha svegliato i sogni. Piove piano sopra terra scura. È un cipresso maschio e canne, si corteggiano con suoni di foglie, dolce latte aumenta la coscienza, soffia via la mente adulta, da una cappa sale sopra il fumo. Silvia, ti ricordi la paura? Tanta gente dietro i vetri e nessuno ti gettava un fiore. E la rabbia ormai non ha più voce, lascia il posto a indifferenza, suona forte se non torna la tua pazienza. è strano con il mattino, le montagne sono di sabbia e non sapere dove volare non vuol dire che sei senza amore. Ed ancora il mio nome, puoi usarlo come ventaglio al sole. Stanco di lottare contro il bianco, il tuo glicine si è arreso. Sulle palme adesso è già l'inverno, la licenza è quasi terminata, la stazione è il mio maglione, la domenica è già consumata. Silvia benedetta, la tua mano calda al vento in tramontana, fresca per le fronti di fatica. La Toscana ha vinto, ha già rubato i tuoi occhi e i suoi colori e cavalchi ad una caccia fra le monete. Nella mia tasca, nella mia tasca, nella mia tasca. Vannuccio, che dici di Silvia? Sicuramente è una pietra miliare, non lo dico solo io per fortuna, ma lo dicono in tanti che è una pietra miliare della canzone italiana. Forse perché anche nel 75 forse già si stava un po' perdendo la bellezza della canzone un po' acustica, un po' proprio la canzone d'autore, no? Si stava già un po' affievolendo questa capacità, per cui forse Renzo era arrivato al momento giusto, insomma, per rinfocolare un po' quella che era la tradizione italiana di grandi scrittori di canzoni. Cosa ci puoi dire di questa canzone? Beh, è una canzone che sicuramente io gli voglio bene, perché è la prima cosa che ho fatto, quindi è una storia, non ti dico vera, però comunque basata su una storia vera, nel senso che un weekend che io passai a Firenze, poi al ritorno scrissi questa canzone, facevo il militare, mio padre stava male, perché insomma un sacco di cose tutte messe insieme, e alla fine è uscita fuori questa. Poi da questa abbiamo fatto un disco. Il disco fu fatto in maniera abbastanza particolare, perché loro vollero provare un arrangiamento con due personaggi abbastanza nuovi, che si chiamavano Pippo Rendine e Pippo Mazzuca. Sì. Sergio Rendine e Pippo Mazzuca erano due alternativi, scrissero delle cose abbastanza, e le canzoni vennero in un certo modo, non so se vennero peggio o vennero meglio di come io pensavo, questo non lo so. Comunque fu fatto questo disco e io cominciai a muovermi. Ed è stato prodotto da Francesco De Gregori? No, il disco, no? Il primo fu prodotto forse da Francesco, beh comunque sì, mi portò lui alla regia. Quindi poi lui produsse Chiari di Luna. Sì, quello che fu quello successivo, quello fu prodotto da lui. E il primo, appunto, lo facemmo così. Tu pensa che Francesco, prima di fare questa cosa con questi due arrangiatori, facemmo dei provini con un signore che si chiama Nicola Piovani, che ai tempi non era famoso, aveva però già fatto dei dischi di De André. Quindi questo provino praticamente è stato fatto da Nicola Piovani ed era bellissimo. Io purtroppo non ce l'ho più. Con un quartetto d'archi, Edda Dell'Orso che faceva la sua voce di soprano. Era un disco bellissimo. Aveva fatto questo qui e un altro che si chiamava Parole che si usano solo dopo cena, che sta sempre nell'album. E però l'RCA disse no, è una cosa troppo vecchia, è una cosa che non è originale, non è nuova, i soliti archi, i soliti... c'era un corno francese, un oboe. Insomma, una cosa stupenda, sembrava un disco di Donovan, per dirti. E vabbè, non lo volevo. Poi invece questa stessa canzone fu ripresa nel tipo 79, quando Lucio Dalla, io feci incisi un disco che si chiamava Silvia eccetera eccetera, sì, che era una raccolta di vari dischi, di vari pezzi, con un inedito che si chiamava Che stella che sei, e poi in Lucio Dalla disse io rifaccio un arrangiamento di Silvia nuovo, e fece questo arrangiamento e lo mettemmo in questo Silvia eccetera eccetera, in cui Lucio suonava il clarino, suonava il sax, come molto, anche in Che Stella bella, Che Sei, molto ed è bello, sì, gli Stadio suonavano tutte la base fu fatta dagli Stadio, insomma, c'era anche Ron, se non mi sbaglio. Ron suonava pianoforte, quindi era, sì, venne una cosa abbastanza bella. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24 con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Siamo al 1977, Renzo. Oddio, che disco era? Danze, sempre per la RCA. Danze è stata una cosa molto sofferta. Perché non si sapeva bene da chi farlo arrangiare, finché io chiesi a Paolo Conte se me lo arrangiava lui. Paolo Conte mi disse sì sì, volentieri, mi piacciono queste canzoni, vieni a Torino e lo facciamo. Io sono andato a Torino e lui ha scritto delle cose molto complicate, molto strane, molto contiane, tra virgolette. Sì, proprio uno stile suo. E ci aveva messo in queste cose, che io lì per lì non amai moltissimo, per cui chiamai al volo Lilli Greco e gli dissi: Lilli Greco, corri a Asti, perché qua secondo me la cosa sta andando complica. In uno strano modo. E allora venne Lilli e disse: vabbè, capisco quello che pensi, capisco quello che sottintendi, provo a farlo io questo arrangiamento. E l'arrangiamento dei Danze è stato fatto da Lilli Greco. Ma come mai tu hai chiesto proprio a Paolo Conte? Perché era un periodo che ci vedevamo con Paolo Conte, abbiamo cantato insieme, non mi ricordo in quali... facevamo una trasmissione in televisione insieme, che poi non andò mai in onda, insieme a Piero Ciampi e insieme a Nada, noi quattro. E non so se è mai andata in onda questa trasmissione. Poi cantammo in vari posti dal vero, insomma diventammo amici, io andavo a trovarlo. E così, quando io ho scritto queste canzoni, gli feci sentire e gli dissi: ma per avere un consiglio anche, e così. Allora, io direi di passare alla musica. Tu preferisci che suoniamo qualcosa in acustico? No, assolutamente, di quello proprio non mi ricordo più niente. Allora, ascoltiamoci Io e te su Quei giorni, dall'album Danze. Intrecciava discorsi e regalava parole buone, e sotto un pranzo importante ascoltava in pace. Poi alla fine se trovava due ciliegie legate, le posava a cavallo di un orecchio. Piacerebbe seguirti quando porti in tintoria i tuoi vestiti e il tuo caro buon umore smesso. Questa sera ho scordato la mia amante sotto la pioggia, lei è venuta a trovarmi e ha raccolto una foglia. In questa casa manca un gatto, disse, sei abbandonato. Io mi accorgo delle tende non comprate. Poi quegli occhi di cervo di montagna in casa mia erano i primi, dopo quelli del vento volato via. Io su quei giorni sotto un cielo che aspettava la neve, camminare il guinzaglio guinzaglio ed il cane trovati, e te fra le mani al mio fianco, sotto ombrelli abbracciati, in fila educati. Tu su quei giorni, pomeriggi invernali finiti, costruivi il tuo mondo e parlavi più forte, come tutte le ragazze a uno sguardo, dietro un angolo, per caso incontrato. E se tu fossi qui, io smetterei di cantare. Sarebbe dolce avere qualcuno. Scusate un attimo, ed alzarmi da tavola per poterti telefonare. Dove sei stata quando urlavano i corvi, quando i barbieri con i loro pennelli di schiuma scrivono sullo specchio buon Natale e buona fortuna. Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Penso che sarai sicuramente d'accordo con me, Vannuccio. Oltre la musica, gli arrangiamenti, eccetera, ma ci sono anche i testi di Renzo, che sono testi di Renzo bellissimi. Sono bellissimi, ma sai perché? Perché lui riesce a pescare delle piccole frasi quotidiane. La sua poetica non è fatta di voli pindarici o cose del genere, è fatta proprio delle piccole cose che tu prendi, la schiuma da barba del barbiere che abbiamo appena sentito, no? Quindi quelle cose che in qualche modo le vedi nella tua vita, quindi non è una poesia estetica, è una poesia vissuta. Assolutamente, e quindi molto più per questo diventa bello ascoltare, perché la puoi vivere anche tu. Non hai un tramite necessario, trova con delle parole assolutamente semplici qualcosa che tu hai visto e te lo fa vedere magari sotto un altro punto di vista. E questa è l'importanza forse dei testi di Renzo. Tu sei d'accordo, Renzo, su... Ma io mi sento molto onorato a sentir parlare così, non lo so se... Il fatto vero è che io parli di cose piccole, questo è assolutamente reale. Poi naturalmente il fatto della parola poetico, sono tutte cose che io rifiuto, perché insomma non mi sento minimamente una persona che scrive cose poetiche. Però insomma comunque sia scrivo delle cose piccole che possono essere condivise dalla gente che ha un minimo di sensibilità. Se no certo naturalmente non te ne può fregare di meno del Buon Natale scritto su uno specchio di un negozio di barbiere. Passiamo al 1978 con l'album Bandierine. Bandierine. Sì. E qui comincia veramente a... Qui cominciamo a andare sul pesante. il disco è costato tipo 130 milioni. Che all'epoca non erano pochi. Che erano tantissimi all'epoca. Che ne ha guadagnati, non so, 10. Però non è stata colpa mia, è stato il fatto che Ennio Morricone, che ha fatto l'arrangiamento, ha fatto un arrangiamento talmente importante, talmente compresso, talmente pieno di roba dentro, che bene o male quando io sono andato poi a farlo sentire in Rai mi hanno detto prego, questo proprio non lo passiamo neanche se lei ci dà i soldi. Poi non ci andai io, ci andò sempre Michele Mondella, poverino, il quale doveva combattere con queste cose dicendo ma no, guardate che è una cosa carina. Quindi il disco a me è piaciuto tantissimo. Quando l'abbiamo sentito, finito, ci siamo tutti un po' commossi. Io, Ennio Melis, che era il direttore dell'RCA, Morricone stesso era molto contento. Peraltro adesso ogni volta che lo incontro mi dice: tu mi odi perché non ti ho fatto vendere i dischi. E io ogni volta dico: ma guarda che non ti ho mai odiato, non, per carità di Dio, figurati, sono onoratissimo di aver fatto. No, no, tu mi odi, mi odi. È molto simpatico lui, devo dire. Senti Renzo, perché proprio l'altra volta hai chiamato Paolo Conte, questa volta proprio una cosa completamente diversa. Chiedi ad Ennio Morricone di arrangiare in pratica. Come perché mai te lo spiego, è una cosa molto cretina. Io amavo molto le canzoni di Gino Paoli e le canzoni di Gino Paoli erano arrangiate da Ennio Morricone. Per cui ho detto: chi meglio di Ennio Morricone per fare le canzoni mie, che sono comunque canzoni italiane con giri armonici di Do maggiore e La minore? E così abbiamo fatto. Morricone sentì le canzoni, dice: ma a me non mi sembrano male, specialmente i testi mi piacciono abbastanza. E quindi dopo ci ha fatto aspettare un anno, perché doveva fare non so quanti film nel frattempo, e poi è venuto e ha fatto sta cosa. Che tra l'altro c'è anche la collaborazione qui di Claudio Baglioni, perché gli arrangiamenti sono stati fatti da Ennio Morricone, però qui ha anche partecipato Claudio. No, Claudio, canzone, Claudio, no? Claudio ha fatto, diciamo, ha cambiato gli accordi di una canzone. Nel senso che ancora le dirai ti voglio bene, che io ancora canto nei miei concerti. Quindi questa possiamo ascoltare. Io l'avevo fatta con altri accordi. Sì. E lui mi ha detto: no, Renzo, aspetta, ci mettiamo al pianoforte e ci facciamo gli accordi. E devo dire che a suo merito, quando Morricone l'ha sentita, chiaramente con i suoi accordi, ha detto: beh, questa è l'unica che io non ti cambio neanche un accordo. E io lì dissi: ma allora sto Claudio Baglioni è bravo. E quindi l'ascolteremo in acustico adesso. Ma no, ti posso far sentire una strofa, perché è una canzone molto lunga. Una strofa, poi ritorniamo su Ennio Morricone. Sì. Caspita, che luce di importanza nei suoi occhi e le sue mani, fatta apposta per accendere un fuoco, consolato in un viale d'autunno, arancione, se vuoi cercalo, dove un attimo diventa passato. E scusalo se piange troppo di malavoglia e di rado, ma il suo pianto vale 10 volte il tuo, perché è di un uomo. E se a volte incontrai ciò che hai sempre fuggito, qualche volta fingerai di non avermi incontrato. Andai su per la via dove un sorriso c'è per chi ne vuole, ti aspettai quando la notte ruba i segreti delle case. Io volevo ritornare un attimo su Ennio Morricone, perché è una cosa un po' particolare avere anche la possibilità di parlare, possiamo veramente dire, del grande maestro, no Renzo? Sì, questo possiamo dire. Beh, è più grande. Perché tu gli hai chiesto, ma lui non ti ha dato subito la sua disponibilità, sono passati 6 mesi prima. Tu, nonostante no, tutto... Sì, certo, io gli ho dato... Lui ha detto sì, ok, lo faccio, però lo posso fare tra un anno, 8 mesi, mi ricordo, 10 mesi passarono. Però io ho detto, vabbè, aspettiamo, tanto... Certo. Una volta che Morricone ti dice sì, che non faceva più arrangiamenti da 30 anni, da 40 anni, non mi ricordo quanto, abbiamo detto beh, aspettiamo. Tu prima hai detto che io non lo sapevo, che è costato 135 milioni, che erano tanti, non erano pochi. Ma... Erano tanti, ma c'era un'orchestra di 40 elementi per 2 mesi di seguito dentro uno studio, insomma, voglio dire. Quindi è chiaro che tutti i musicisti vengono pagati. E la cosa diventa molto costosa. Certo, hanno un'orchestra di 35 elementi più... Sì, ma poi con cose strane, lo so, lui voleva lavorare anche di domenica, perché voleva fare in fretta, perché poi doveva cominciare un altro film, per cui alla fine queste domeniche costavano il doppio, perché tutti i musicisti venivano pagati con un sovrappiù pazzesco, una cosa complicatissima. Senti, raccontaci dell'episodio delle brioche. L'episodio delle brioche, mi sembra, sai, a scuola, la secchia rapita. Ma no, è un episodio molto semplice. Una domenica, appunto, e noi lavoravamo. Naturalmente la domenica il bar dell'RCA era chiuso perché non lavoravano pochissima gente lì la domenica, e comunque non tenevano il bar aperto. E Morricone si presentò alle 8 di mattina, alle 8 e mezza, cominciavamo a lavorare molto presto, portando, mi chiamò fuori e mi disse: Renzo, vieni che mi devi prendere una cosa in macchina. E io pensavo, dico, ma chissà. E mi disse, mi diede sti cartocci di pasticceria, e dico, ma che è? Cioè, guarda, ho portato i cornetti per tutta l'orchestra. Per cui aveva comprato, non so, 200 cornetti, più tutti le termos di cappuccine, di cose, per cui tutta questa orchestra si è messa a fare colazione. Questo era Ennio Morricone, è tuttora Ennio Morricone. Adesso ascoltiamoci ancora le diretti Voglio bene, appunto, dall'album. E ti dico sinceramente che non è stata per me una scelta facile, perché a mano ascoltavo un po' tutto l'album e poi, come ti dicevo prima, mi prendo fuori la canzone, quella che magari mi ha emozionato un po' di più. Però è stata una scelta difficile, perché c'era Per i tuoi sempre e I nostri mai, Una pioggia di affetto, sì, Una sera d'estate, sì, Bellissima. Però poi alla fine ho deciso, sì, per questa anche io, cosa. È una di quelle, l'unica del disco che faccio. Ascoltiamoci e ancora le dirai Ti voglio bene. Caspita, che luce d'importanza nei suoi occhi e le sue mani fatte apposta per accendere il fuoco, consolato in un viale d'autunno arancione, se vuoi cercalo dove un attimo diventa passato, e scusalo se piange troppo di malavoglia e di rado, ma il suo pianto vale 10 volte il tuo, perché è di un uomo, e se a volte incontrerai ciò che hai sempre fuggito, qualche volta fingerai di non avermi incontrato. Andai su per la via dove un sorriso c'è per chi ne vuole, ti aspettai quando la notte ruba i segreti delle case, quando le barche dondolano e rischiano il corallo e un po' di fondo di mare asciuga il sole sul tuo collo. Non avrei mai inciampato mentre dicevo amore, ma per favore dammi indietro anche in pezzi il mio cuore. Non avresti mai creduto a chi si inventa la vita, a chi giorno dopo giorno vorrebbe sia finita. E ancora le dirai ti voglio bene. Se fossi poi sicuro e matto ti comprerei una stella, la prima stella maschio per vederti più bella. E quando venne il giorno e con il giorno il dolore, lo trovarono disteso che stringeva il suo amore. Cambierà le sue corde, cambierà anche il tuo nome, e tu aspettalo a primavera, nelle sere d'aprile, dove un attimo vale un anno, il tempo è arrivederci, dove i sogni sono sogni e i tuoi occhi certezze. E ancora le dirà. E ancora le dirà: ti voglio bene. Rockwave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vannuccio, questo album, se fosse stato proposto ai giorni nostri? Sarebbe stato complicato perché non siamo più abituati a questo livello sontuoso di arrangiamenti. Le canzoni sono belle, non c'è dubbio che sono delle belle canzoni, e il problema sarebbe stato proprio l'arrangiamento, credo, in questo caso troppo pesante per i nostri giorni. Ha dei suoni che non ci riflettono più, cioè onestamente, per ovviamente inchinandomi alla bravura di Morricone, direi si sentono tutti gli anni che ha questo disco, almeno dal punto di vista del produttore. Dopo, certo. ovviamente l'ascoltatore, certo, sì, è legato magari a tutt'altre emozioni, insomma. Radio Cooperativa. Nel 1981, sì, viene pubblicato Telefono Elettronico. Yes. Questa ce la suona in acustico, vero? Sì, questa possiamo farla in acustico. Parliamo un attimo prima dell'album. Sì, Telefono Elettronico, io ho scritto queste canzoni e poi le ho fatte sentire a Lucio per sapere che cosa mi diceva, mi consigliava, cosa ne pensasse. E lui mi ha detto: guarda Renzo, mi sembrano carine, secondo me l'unico che può farti l'arrangiamento sono io. Per cui, se vuoi te lo faccio. Io dissi: ok, facciamolo. E lui chiamò gli Stadio e andammo in studio, e in poco tempo, in 3-4 settimane, fu fatto il disco. Qua, secondo me, iniziamo ad avere ancora un altro passo, no? Dal punto di vista anche, parliamo, musicale, Renzo, o mi sbaglio? Ma guarda, le canzoni sono sempre quelle, sempre le solite, tra virgolette, zenobbiate. Poi, naturalmente, sono vestite in modi diversi in ogni cosa, capito? Quindi, però voglio dire, sono sempre le solite, come dicono a Milano, le menate che scrivo. E qui c'è tutta l'arte, comunque. Tu vai a sminuire un po', però è incomprensibile anche, però rimangono sempre delle grandissime canzoni. E questa è una canzone, tra l'altro, che a suo tempo questa sì ha fatto successo. Beh, questa ha fatto successo perché c'era lui che cantava insieme a me, per cui quando io andavo in televisione a proporla, dicevano: ok, se viene anche Lucio Dalla, ti facciamo venire. E per cui facemmo Disco Ring, facemmo varie trasmissioni dell'epoca, ho posto in alcune anche ridicole, qui lui non ci ricordava il testo, sì, io lo suggerivo. L'ho vista, però è stata una cosa simpatica. Sì, ho capito, insomma, poteva pure impararselo, secondo me. Vai in acustico, Telefono Elettronico. Vorrei che esistesse quel negozio stupendo dove vendono saggezza della luna d'argento. Comprerei una penna che scriva mille canzoni, una polvere che renda veri i sogni e le illusioni. E per te, tua sorella, qualche goccia di insonnia per pensarmi una notte mentre io sto leggendo, quando polvere dalla radio mi fa perdere il segno e le stelle una ad una aspettano il vento. Per mia madre un giradischi che la faccia ballare, una causa da vincere e una vincita al lotto, per te un trapano elettrico per costruirti una casa, un telefono elettronico che ti parli del mio affetto, e agli amanti ormai stanchi compro un viaggio di ritorno, gli compro un'ultima notte e una valigia di ricordi, a te che lasci una stanza compro un orizzonte, stelle da contare, un cielo che ti asciughi la fronte. E per voi che nelle vene avete acqua di mare, un buon lavoro vorrei che non vi faccia tremare, che non cominci col buio e non finisca col giorno, e la domenica una gita senza traffico un ritorno. E per finire per me voglio un microfono d'argento che trasformi in oro quello che sto dicendo, voglio un po' di coraggio di questa notte l'incanto, per dirti quanto vorrei che tu mi fossi accanto. Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Manuccio. C'è poco da dire. Una canzone bella che la fai in acustico, che la fai tutta bella arrangiata. Devo essere onesto, questa non è una delle mie canzoni preferite di Renzo. Però devo dire che aveva una sua genialità, nel senso che, a parte essere un precursore di quel telefono elettronico di cui siamo schiavi tutti al giorno d'oggi, ma anche l'idea stessa di come questa serie di omaggi da fare, no? Era molto molto interessante e come sempre era originale rispetto ai testi che potevano più o meno viaggiare all'inizio degli anni Ottanta. Tu la suoni sempre anche questa con grandissima passione comunque. No? Beh, la suono perché comunque è un pezzo importante, per cui mi fa piacere farla sentire. Passiamo al 1982 e viene pubblicato per la RCA sempre Aviatore. Aviatore, sì, quello è stato l'ultimo disco che ho fatto con la RCA. È una canzone che ha dato il titolo al disco, sta anche in quest'ultimo disco che si chiama Volando, che abbiamo voluto rifare. A parte che l'idea è stata di Nino, perché gli piaceva molto questa canzone, ha detto: secondo me questa canzone ha un arrangiamento che però la porta fuori da quello un po' che vuole dire, quindi perché non la fate in un modo un po' diverso, giustamente? E noi l'abbiamo fatta in un modo molto diverso, l'abbiamo fatta piano e voce e poi con così una spolverata di tastiere che ha messo sopra Claudio Corradini. Che lo salutiamo, ciao Claudio! La canzone nel disco è molto diversa perché è una canzone pop con una batteria, una chitarra e varie cose. Questo, come dicevi prima, è stato il tuo ultimo disco con la RCA. Momentaneamente, sì, perché hai fatto una lunga pausa musicale, sì. Sempre per la RCA. Questo sì, era l'ultimo disco della RCA. E io avrei scelto La fine di una storia. Perfetto, mettila. Io non sono così ricco quanto vuoi per una notte, disse il cieco ad una stella, il cuore aveva le scarpe rotte e la stella gli regalò due occhi di diamante. Questa notte invece io ti regalerò solo il mio cuore, ma com'è grande. La fine di un amore, e poi così normale, che basta quasi un anno e sai dimenticare. La fine di una storia, e niente barba più da fare, ma per la sua strada è meglio no, non passare, è meglio non passare. Il soldato col fucile chiuse un occhio e fece centro. La ragazza disse sì, pensò, se tanto mi dà tanto. L'urlo di un treno poco lontano, il vento sulla loro mano. Poi venne la pioggia, finì la stagione, ma se ci penso non ricordo il tuo nome. La fine di un amore è un giorno che si siede, sono le stelle lacrime e un'alba divide. La guerra di un soldato e una ragazza sopra un prato, la fine di questa storia è il tempo che si è fermato, è il tempo che si è fermato. E basta sai dimenticare quell'addio proprio brutto, ma il guaio amore mio che sei dappertutto. La fine di un amore è un giorno che si siede, sono le stelle lacrime e un'alba divide. La guerra di un soldato e una ragazza sopra un prato, la fine di questa storia è il tempo che si è fermato, è il tempo che si è fermato. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Parlavamo prima di Francesco De Gregori, tu sì. Hai, con lui hai vissuto anche recentemente una bella parentesi durante un suo concerto a Verona, se non mi sbaglio. Sì, a Verona nel 2015, l'altra sera, una settimana fa invece, sono stato ospite nel suo concerto che sta tenendo a Roma in un teatro piccolo della Grabatella, che è un quartiere di Roma, in cui lui sta per 4 settimane, praticamente finisce il 28 di marzo. E ho fatto l'ospite, ho suonato con lui Piccola Mela, Quattro Cani, e poi io ho cantato la mia canzone di Tamerici di Sabbia da Volando. Certo, io vorrei che tu suonassi in acustico Rimmel. Rimmel io l'ho suonata nel disco di Francesco, perché insieme a altre canzoni, tipo pezzi di vetro, tipo Quattro Cani, appunto altre canzoni. Però Rimmel è sicuramente una canzone molto importante, peraltro io la faccio sempre nei concerti, perché è l'unica canzone non mia che canto, perché ci sono affezionato, perché voglio bene a Francesco, perché volevo bene alla compagna di cui questa canzone fa parte, insomma tutto un insieme di cose. Ti lascio la tua vita. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancella il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Mi ha fatto le carte, mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco, è un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, lo avrei distrutto con la fantasia, lo avrei stracciato con la fantasia. Le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce Venere di Rimmel, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona, e quando io senza capire ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Radio Cooperativa. Lorenzo, in occasione di Proiettili d'argento, Lucio Dalla scrive una lettera, sì, alle radio. Fa questa cosa un po' curiosa, perché a Lucio non stava in tasca che Renzo non avesse successo, che lui diceva che era più che meritato. Allora lui scrive questa lettera. Io vorrei, se tu mi permetti, leggere l'ultima parte di questa lettera che ha scritto Lucio, perché la ritengo meravigliosa. Lui scrive: il suo primo disco fu prodotto da De Gregori, il secondo da Morricone e il terzo da me. Ma nonostante tutti questi nomi con cui ha lavorato, Zenobi non ha trovato un accesso facile verso il pubblico. Forse non era così diverso da tutto il resto o così originale come lo è adesso. Per questo te lo propongo mandandoti il suo ultimo disco, che mi sembra una follia, ma è anche quasi un capolavoro. Mi piacerebbe che il pubblico della tua radio conoscesse anche questo angolo della canzone, oggi che le musiche sono quasi sempre uguali e che le parole fanno fatica a volare. Naturalmente, ed è giusto che te lo dica, io non ho niente a che fare con lui. Non sono il suo produttore, né l'editore o il discografico. Sono semplicemente uno che non si stanca mai di cercare cose nuove ed in qualche modo battersi per loro, come spero, anzi sono convinto farai anche tu. Io oggi ho raccolto questa cosa per Lorenzo, È bellissima questa cosa che ha scritto Lucio Vannuccio, che dice? No, è assolutamente eccellente, ma sai, gli esempi non sono mai mancati. Prendi un Piero Ciampi, prendi un Umberto Bindi, loro non sono mai stati personaggi da sabato sera, da varietà del sabato sera, hanno scritto cose meravigliose. Ma anche altri che abbiamo sentito molto di più, un Bruno Lauzi per esempio, quando mai l'hai visto più di tanto in televisione oppure partecipare a un festival bar? Cioè, eppure ha interpretato canzoni strepitose, Amore caro, Amore bello, scritta da Mogol Battisti, è una canzone meravigliosa, però non c'è verso, a volte come posso dire, l'establishment è refrattario a certe cose, ma lo viviamo anche noi come piccola etichetta, come altre cose, pur proponendo magari delle cose assolutamente dignitose, non voglio dire belle o strepitose, dico assolutamente dignitose, però non c'è verso, non si aprono le porte, non si, perché ecco, forse come diceva Lucio Dalla, perché proponi delle cose che non sono già in orecchio della gente? Proponi qualcosa di nuovo, e il nuovo è sempre difficile da digerire, certo. Per cui non è immediato, il nuovo ha bisogno di essere ascoltato, ha bisogno di essere ascoltato con attenzione soprattutto, quindi non semplicemente ascoltato distrattamente, deve essere spinto, deve esserci una radio, ecco, che in questo caso una radio, una televisione, intelligente, nel senso più etimologico del termine, che comunque spiega cosa sta succedendo in certi campi musicali. Ma poi sai che c'è, veramente questa è stata una colpa grossa delle radio, perché per esempio quando in Inghilterra uscì fuori Radio Luxembourg, bene o male, quella è una radio che era comunque alternativa, metteva della musica alternativa a quello che metteva la BBC, capito? E invece in Italia le radio alla fine poi non hanno fatto altro che imitare la RAI. Per cui adesso le radio grosse, che ne so, quelle che vengono sentite in tutta Italia, a me non mi vogliono assolutamente, vogliono soltanto i nomi stragrossi, quelli che vendono milioni di dischi, e non gli importa niente di fare qualcosa che sia alternativo a quello. Certo. Cioè, vogliono imitare la RAI, facendo gli stessi telegiornali, uguale, c'era identica. L'uniformità, ma non c'è una differenza. Io infatti non le sento più, sento la RAI a questo punto, tanto è uguale, certo. Mentre queste radio che fu l'inizio delle radio che stavano sul canale della Manica, perché non potevano nemmeno entrare sul suolo inglese, sì, quindi loro dovevano muoversi continuamente, certo, e quelle mettevano musiche alternative, quando quelle cose che non venivano messe dal BBC le mettevano loro. È un peccato che una lezione non sia stata imparata, lo diceva già Lou Reed, My life was saved by rock and roll, no? Esatto. Voglio dire, si sarebbe dovuto magari osare un po' di più, ma forse negli anni 70 lo facevano, cioè erano comunque delle radio alternative, ma poi sono state assolutamente soffocate da un sistema. Sì, hanno voluto comunque uniformarsi, capito? Nessuno ha voluto rimanere completamente una cosa nuova, una cosa diversa, una cosa strana. Avviciniamoci sempre di più agli anni nostri. Sì, basta con questo passato. Vogliamo parlare del nuovo disco. Dedichiamo adesso un bel po' di spazio a Volando. Vorrei che lo presentassi tu, Vannuccio. Mi sembra doveroso. Beh, non è semplice presentare un disco, perché è un disco facile da un certo punto di vista, nel senso che non ha bisogno di ascolti particolari o di strutture melodiche stranissime. Come diceva Renzo, le canzoni sono in do maggiore, la minore nella maggior parte, ma non è quello che secondo me ha avuto il grosso valore. Le canzoni, è un disco che ha 13 canzoni tutte bellissime secondo me, per cui già questo è un valore non indifferente al giorno d'oggi, dove si arriva di solito ad avere 3 brani belli e il resto sono riempitivi. Queste sono tutte belle. È stato un disco che tra l'altro abbiamo voluto fare in maniera particolare, nel senso che coinvolgendo proprio delle persone che più diverse non potevano essere. L'hanno suonato un gruppo di progressivo italiano, che insomma tra l'altro non famoso, quindi non siamo andati in cerca di musicisti eclatanti. Ma per quanto diciamolo, chi è il gruppo? Il gruppo sono gli Aliante, un trio toscano che è composto da Enrico Filippi alle tastiere, Jacopo Giusti alla batteria e Alfonso Capasso al basso, e molto bravi pur non essendo appunto noti nel mondo musicale. L'abbiamo fatto arrangiare per esempio da una persona completamente distante dal mondo prog, o più o meno distante, che era Claudio Corradini, che ci ha messo veramente l'anima e una passione enorme. Diciamo che, come diceva Renzo prima, noi abbiamo cercato di creare un gruppo che credesse in quello che stesse facendo, quindi non semplicemente suonare bene, fare le cose bene, fare il compitino a casa, no? Asettico. E secondo me ci siamo riusciti, abbiamo creato una squadra che ha saputo soprattutto amare le canzoni. E è stato facile poi dirigerlo, il produttore fa una specie di direzione, dice dove vuole arrivare, no? E abbiamo trovato veramente del terreno molto fertile, nel senso che le idee sono poi uscite molto naturalmente, per cui secondo me il disco si sente che è stato fatto in maniera molto entusiastica da tutti. Abbiamo veramente lavorato divertendoci poi. Certo. Diciamo anche da chi è stato pubblicato e poi anche distribuito. Allora, l'etichetta è la MPN Records, quindi la mia etichetta, ed è distribuito dalla GT Music Distribution di Antonino Destra. Che è acquistabile, ovviamente. È acquistabile sul sito, acquistabile ovviamente nei negozi online, acquistabile dappertutto. Comunque il sito, diciamo, di origine è la GT Music, www.gtmusic.it. Renzo, di questo album cosa mi dici? Questo album è uscito fuori come un figlio inaspettato, nel senso che io ho conosciuto Vannuccio perché Vannuccio era su Facebook e perché aveva un'etichetta discografica ed era amico di tantissimi miei amici musicisti. Per cui io alla fine poi gli ho scritto e gli ho detto, dico, ma senti, tu ti intendi di musica, fai le produzioni discografiche, ma se io ti scrivessi delle canzoni, tu casomai le senti e mi dici che ne pensi? Ho detto, va bene, scrivile e io ti dico poi un parere. Io ho scritto queste canzoni, gliele ho mandate su, queste canzoni fatte chitarra e voce a casa mia con un registratorino Sony da 60 euro, che ne so. E bene o male queste canzoni gli sono piaciute. Allora, più bene che male. Beh, più bene. E che alla fine abbiamo detto, ok, allora vogliamo farle? E lui mi ha detto, per me sì. Dico, ma tu hai un'idea di come farle? Perché io non ce l'ho assolutamente, dopo tutti questi dischi che ho fatto, tutti questi personaggi che ho conosciuto, che ho coinvolto, non ce l'ho più questa chiarezza di vedute. Io metto, no, io penso di avere un'idea, quindi tu lasciati seguire, lasciati portare e vediamo di fare questa cosa. E così è andata. Senti Renzo, io dall'album avrei scelto Se rimani con me. Tu hai qualcosa di pronto in acustico, in alternativo da proporre? Ti faccio Se rimani con me. Se rimani con me, ti porterò una gemma che non ha mai brillato, solo per i tuoi occhi ti porterò una perla nata da una conchiglia. Riparti? Pronto? Se rimani con me, ti porterò una gemma che non ha mai brillato, solo per i tuoi occhi ti porterò una perla nata da una conchiglia, ti porterò la spesa e un mazzetto di fiori. Se rimani con me, ti porterò i colori di poesie d'amore scritte sui muri, ti rubo la tristezza dei lunedì di pioggia, ti rubo l'angoscia che porti al guinzaglio. Se rimani con me potrai prendere il gelato ogni volta che vuoi e un paio nuovo di scarpe per ogni tuo vestito che gira in una stanza, per ogni tuo sorriso che illumina il tuo viso. Se rimani con me ti chiederò soltanto di darmi il tuo cuore nel buio di una stanza. Puoi chiudere gli occhi finché non te lo dico e aprirli soltanto davanti al tuo compleanno. Se rimani con me al nostro risveglio ti porterò il caffè sotto il nostro piumino, ti porterò al mare anche se è inverno, in un caffè deserto sotto un cielo di piombo. Se rimani con me io non farò niente, ti guarderò soltanto mentre dormi al mio fianco. Poi andremo lontano portati dal vento, prenderemo un gabbiano che ci porterà nel tempo. Se rimani con me, se rimani con me, se rimani con me, se rimani con me. Radio Cooperativa. Vannuccio, cosa rappresenta per te questo album? Vabbè, è un bel traguardo anche per me. Quindi conti l'etichetta, nel 2018 ha fatto 26 anni. È un po' d'acqua la vista passare sotto i ponti. Però sai, essere in qualche maniera contattato e richiesto di produrre un disco di un cantautore come Renzo Zenobi, che di storia ne aveva più della mia etichetta sicuramente, è stato un grande onore e sicuramente una grande sfida, perché ovviamente bisognava, devi mettere in campo il meglio che puoi. Penso che ci siamo riusciti, certo. Penso che è stato un lavoro molto corale, è stato un lavoro molto fatto insieme. Come è stato costruito questo? Allora, è stata costruita così: siamo partiti dalle famose 12 canzoni che sono arrivate su una pennetta e abbiamo innanzitutto ascoltato i testi, abbiamo ascoltato le melodie ed erano tutte molto belle. Per cui non siamo riusciti a trovare, come possiamo dire, dei brani, non dico minori, ma comunque non c'erano dei brani riempitivi, dei brani messi là perché dobbiamo arrivare ai 40 minuti. E già questo è molto positivo. Dopodiché bisognava pensare che struttura dare. Noi da poco avevamo fatto un disco appunto degli Aliante e loro mi sembravano sicuramente persone più adatte a farlo. Ma perché poi si è creato, quello che ci interessava creare era un'atmosfera particolare per questo disco, che era un'atmosfera amichevole, non doveva essere il disco preciso, bello, tutto quantizzato, tutto rielaborato a computer. Anzi, doveva essere veramente un lavoro molto emotivo, molto espressivo. E così è stato. Gli Aliante sono stati molto bravi, nel senso che loro avevano dato una struttura alle canzoni che poi, insomma, una volta provinate, abbiamo capito che forse si era andati un po' al di là di quello che si voleva raggiungere. E per questo è stato chiamato poi Claudio Corradini, perché secondo me lui era veramente il punto di congiunzione tra quella che poteva essere comunque un lavoro sulla canzone d'autore, ma con una mente molto aperta alle nuove sonorità, alle nuove cose. Ed è quello che abbiamo messo in questo disco praticamente. Quindi lui ha dato delle ottime indicazioni agli Aliante, ha dato delle ottime indicazioni, poi lui ha lavorato molto insomma nel raggiungere poi lo scopo. È stato tutto un lavoro che abbiamo però discusso insieme. Una volta decisa la direzione che si voleva prendere, c'è stata una grossa sintonia sempre. a volte ci siamo stupiti, a volte ci siamo anche un po', non dico scontrati, perché quello non è mai successo, però magari c'era una diversa visione delle cose. E ho visto che invece poi alla fine il risultato ha veramente pagato enormemente quello che è stato il risultato. Ma poi è stata tutta una cosa venuta carina. Pensa che quando io a un certo punto cantai a Ferrara in un bar, e gli Alianti hanno preso la macchina e sono venuti per vedermi, per sentire queste canzoni, per capire di più quale fosse il mio mondo, diciamo, no? Quindi voglio dire, persone talmente disponibili, talmente carine, che poi si sono innamorate proprio della mia musica. No, sono stati proprio straordinari. Sì, sì, sì, devo dire che si è proprio creato la sinergia ideale che uno vorrebbe avere sempre in uno studio di registrazione, perché poi la cosa non si è fermata al registrare, siamo riusciti a trasmetterlo a Maurizio Panefioriti, che ha fatto un messaggio meraviglioso. Sì, il messaggio è stata una cosa, capito, a parte che era tutto, si metteva tutto contro in qualche modo, si è tutto messo in maniera strana che dovessimo andare a fare questo messaggio da Ron. Esatto. Che il quale mi aveva detto: ma scusa, dove stai ad andare in giro? Vieni da me, perché secondo me è meglio del mio studio, non c'è in giro. E io ho detto: ma guarda, Vannuccio si sta interessando in Veneto, perché siamo più vicini a casa sua, forse è più comodo. Insomma, alla fine tutto si è messo in modo che siamo andati alla fine a finire da Rosalino. Esatto. Abbiamo fatto varie tappe. Il disco è stato registrato principalmente in Toscana, il corpo del disco è stato registrato in Toscana. Dopodiché Aviatore, che era appunto questa canzone che abbiamo voluto rifare, è stata registrata invece a Roma, e sì, il pianoforte l'ha suonato in maniera stupenda Arturo Stalteri. E l'abbiamo registrata, appunto, una vecchia conoscenza di Renzo, ma anche mia, nello studio di Fabio Liberatore. Per cui dello stadio, il tastierista. E quindi insomma c'è stata anche questa tappa romana. La voce è stata fatta qui nel Padovano, l'abbiamo fatta nello studio di Ruggero Robin, e la chitarra è stata fatta addirittura da Claudio, da Claudio. E poi siamo finiti a Garlasco, appunto, a rifinire il disco, e è stato un disco molto vagabondo. Sì, poi il transfer è stato fatto a Milano, nell'ex studio del famoso Nautilus, che adesso è stato preso da quelli che ce l'avevano dentro e lo continuano a portare avanti. Belli, che sono stati bravissimi, gli hanno dato delle frequenze perfette. Insomma, secondo noi è un disco fatto bene, poi può piacere o non può piacere, sicuramente, come, certo, tutto. Ovvio, come però comunque sia un disco che è stato... Gli abbiamo anche dato una bella veste grafica, cioè non è bastato. La copertina è bellissima. Sì. La copertina chi l'ha creata? Allora, l'idea è di Vannuccio. Sì, l'idea cosa è stata cosa rappresenta? Perché questi fiori appesi a delle molettine. Allora, in teoria bisognerebbe svolgerlo tutto il discorso, perché si parte da questi fiori appesi, quindi questo quasi una specie di omaggio che si vuole mantenere in qualche modo nel tempo, e si arriva a tutta una serie di oggetti che poi sono degli oggetti che si trovano in casa di Renzo e che si trovano in tutte le canzoni, esatto, che sono stati ripresi nelle canzoni. In ogni canzone tutte le cose che tu vedi anche vicino ai testi che sono stampati dentro il libretto sono poi canzoni che sono comprese nel testo della, sono oggetti che sono compresi nel testo della canzone. Quindi questi fiori a un certo punto si trasformano, e c'è questa farfalla che in qualche modo cerca di rientrare nella stanza dove questi oggetti sono stati poi disposti. È bellissimo, è come vedere un quadro che lo vedi ma magari non lo capisci, magari qualcuno esatto. Te lo spiega. E la copertina è la spiegazione, è un po' la spiegazione di queste canzoni, diciamo, illustrate, sono i testi un po' illustrati. Sì, è stata realizzata da Daniele Massimi, che è stato molto bravo nel realizzare poi fisicamente l'idea che avevamo avuto. Insomma. Quanto tempo ci è voluto per costruire, per realizzare questo album? Siamo partiti ad aprile e l'abbiamo finito ad ottobre. Non è stata proprio una passeggiata. Non è stato forse un po' più lungo. Come no, forse, sai, la registrazione è stata tutto sommato velocissima, in effetti, in 4 giorni. Sì, l'unica cosa che dovremmo aspettare è che gli Aliante fossero liberi, esatto, perché loro erano abbastanza impegnati, per cui abbiamo fatto prima una tranche di registrazione, poi dopo un mese, sì, un mezzo, 2 mesi, siamo tornati a fare la seconda, no? Come fu? Sì, esatto. Sì. Dopo da lì, fatte le basi, è andato avanti poi abbastanza velocemente. Sì. Poi è passata l'estate e noi a ottobre abbiamo fatto il missaggio. Abbiamo fatto, sì, l'inizio di ottobre, il disco è uscito il 26 ottobre. E il disco è uscito alla fine di ottobre. Poi la cosa bella è che praticamente Renzo Zenobi ha 35 anni, il tutto diventa una cosa... Non abbiamo parlato di età, abbiamo che vive la propria musica. Esatto. Anzi, bello che tutte queste cose sono state concentrate in questi 35 anni. Pensa quanta storia, 11 anni. C'è ancora quello che devo fare. Io penso che ci sarà anche un seguito a questo punto, no? No comment, qui non commentiamo. Diciamo niente, se dite così vuol dire che ci sarà qualche sorpresa, chi lo sa. No comment. Aspettiamo. La prossima canzone, Vannuccio? Allora, io proporrei Attimi d'amore, perché a parte essere la canzone che apre l'album, è anche forse la canzone più vicina allo stile Zenobi, secondo me. È anche quella che sintetizza meglio la filosofia sentimentale di Renzo. Però devo dire anche un'altra cosa. È stata la canzone che ci è piaciuta subito come l'ha pensata poi Claudio Corradini, come l'ha arrangiata. Per cui secondo me è molto indicativa, una bella idea dell'album, anche se poi l'album è un album di continue svolte. Non puoi mai aspettarti la stessa cosa due volte nell'album. Allora ascoltiamoci Attimi d'amore di Renzo Zenobi dal suo ultimo album Volando. Attimi d'amore non sono altro che attimi d'amore, due cucchiaini di passione per colazione, anni andati via, angoli persi di una fotografia, come eravamo diventati due sconosciuti. Attimi d'amore che restano qui dentro di me, vividi impronte che il mare ha cancellato già di te, di me. Attimi d'amore non sono altro che attimi d'amore, quando cantavo mi guardavi e poi mi amavi, nuvole passate, le mie burrasche sono nuvole passate, l'amore dorme tra di noi, non lo svegliare. Attimi d'amore che restano qui dentro di me, brividi impronte che il mare ha cancellato già di te, di me. Attimi d'amore sono altro che attimi d'amore. Questa tua assenza che da un po' abita qui. Giorni ormai passati non sono altro che giorni tramontati. Resta una stella che oramai prende il tuo posto, sai. Prende il tuo posto, sai. Prende il tuo posto. Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Ultima canzone in programma. Vannuccio, lascio a te l'onore ancora. Di... Sì, lascio a te l'onore di... mi sembra doveroso. No, sceglierei di Tamerici di Sabbia. Per due motivi principali. Uno, perché in effetti ha un arrangiamento davvero strepitoso, proprio quasi senti l'incedere della canzone, tu arrivi che c'è sempre qualcosa di nuovo, qualcosa e di modernissimo, poi perché la canzone è una ballata, una semplice ballata, ha un po' il sapore del folk inglese, dei Pentangle, di quel filone degli anni 70, però è stata arrangiata in maniera modernissima, in maniera meravigliosa, sempre da Claudio Corradini. È la canzone anche che mi piace di più, forse come testo, un testo estremamente evocativo e quindi ecco, forse è quella che, a parte essere quella che mi piace più di tutte del disco, è quella che forse ha, sempre per quello che penso io, il migliore connubio fra testo, musica, arrangiamento, situazione che riesce a creare. Quindi di Tamerici di Sabbia, direi. Renzo, prima di chiudere, prima di passare anzi ai saluti, perché poi alla fine, proprio dopo che avremo fatto i saluti, manderemo in onda la canzone, per te proprio alla fine cosa ha rappresentato questo album? Pensavi ancora di riuscire a... No, sinceramente è stata una sorpresa per me, ti dico sinceramente, ma è stata la prima sorpresa, è stata quella di riuscire a scrivere ancora delle canzoni dopo tanto tempo che non ne scrivevo e dopo tante canzoni che ho scritto, perché non è semplice. Invece ci sono riuscito e questa è stata una mia soddisfazione. E l'altra soddisfazione è di sentire poi come la realizzazione di questo disco, di queste canzoni, insomma, perché se tu senti le canzoni che io ho fatto voce e chitarra su questa piccola pennetta, sono una cosa completamente diversa, insomma. Per cui sono stato molto felice di questo, di come l'abbiamo fatta, che ci siamo divertiti, che è stato fatto tutto senza sofferenza, il che mi ha fatto piacere. Io voglio ringraziarvi, perché per me è stato importante, e ti ringrazio Vannuccio di avermi dato questa bellissima e importante opportunità, per me anche mio. E anche per chi ascolta Radio Cooperativa. Io volevo invitarvi, lo faccio sempre, 30 secondi, un minuto magari, per dire quello che non sono magari riuscito a chiedervi, oppure se avete bisogno di un ringraziamento particolare. Vannuccio. Beh, io ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno lavorato a questo disco, prima di tutti ovviamente a Renzo che ci ha dato fiducia, perché il rapporto artista-produttore è assolutamente fiduciario ed è una cosa che molte persone si stanno dimenticando, purtroppo. C'è una specie di autarchia dominante tale per cui tutti pensano di essere in grado di E invece quando fai un disco come questo ti accorgi che ognuno ha un suo posto preciso nell'economia del disco, ma economia nel senso di come sarà il risultato finale. Sì, questo è verissimo, secondo me, è la cosa più importante. La gente non si rende conto di quanto può essere, quanto è importante la figura di un produttore. A parte che adesso cominciano a scarseggiare questi produttori, perché molti sono morti. Quelli grossi non ci sono più, e quindi rimangono poche persone in grado di saper fare una cosa del genere, che è una cosa che bisogna saper fare, non si improvvisa. Vannuccio Zanella, Renzo Zenobi, cosa dire? Grazie di essere stato. Grazie a te, grazie, stato molto carino, bravo. Molto piacere. Di aver parlato e condiviso passato e presente della grande musica italiana. Prima Renzo mi ha detto, esagerato, no? Effettivamente abbiamo sentito, ne abbiamo avuto la prova, ne abbiamo parlato, è stata per me una grandissima esperienza, tra virgolette, chiamiamola professionale, anche se professionista non lo sono. Però è stato veramente una bellissima esperienza. Grazie mille, molto gentile. Grazie. Un abbraccio a tutti da Radio Cooperativa e da Gil Facchinelli. Alla prossima, grazie. Cammino vestito tra il mare e la sabbia, tra il bene e il male raccolgo conchiglie, tra il male e il bene ho trovato un amore, lo metto in tasca, lo cucio sul cuore, lo metto in tasca e nel cuore. Sei tu quell'amore, sei tu la mia fortuna, che porto al collo come una collana, che porto in testa come un cappello, morbido e dolce come un guanto di lana, come un guanto di lana. Tutto finisce, tutto va via, anche le frasi più belle d'amore, ma il nostro amore non va più via, qui sul divano abita in casa mia, abita in casa mia. Torna l'autunno fuori dalla finestra, con le sue foglie di mille colori, ma questo amore è più forte di autunno, non va sul selciato portato dal vento, portato dal vento. Ti ho conosciuto ed era di ottobre, ti ho conosciuto come fosse da sempre, come le pagine girate dal vento di un libro scritto in un altro tempo, in un altro tempo. Cammino vestito tra il mare e la sabbia, tra il bene e il male raccolgo conchiglie, tra il male e il bene ho trovato un amore, lo metto in tasca sporco di sabbia, di tamerici e di sabbia, di tamerici e di sabbia.